in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali italiani. Oggi abbiamo un pochino meno tempo rispetto ai nostri appuntamenti settimanali, quindi vi segnalo velocemente le prime pagine, che poi hanno sostanzialmente due argomenti: da una parte il rapporto della Corte dei Conti sull'aumento delle tasse comunali e poi le fotonotizie dedicate al nubifragio di Firenze. Poi quindi vi segnalerò, cercherò di segnalarvi magari delle cose un po' più particolari all'interno. Quindi il Corriere della Sera, appunto, il peso delle tasse comunali con vari commenti, ma vi segnalo un intervento che inizia in prima pagina e continua a pagina 27 di Roger Abravanel, che è un economista ma soprattutto un consulente aziendale, ha lavorato per moltissimi anni in McKinsey e poi si è dedicato anche con alcuni libri soprattutto al tema della meritocrazia in Italia. Questa lettera che scrive al Corriere della Sera riguarda l'esame di maturità e una proposta per cambiarlo, partendo dai dati. Su questo ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, su queste differenze tra i dati al nord e al sud, e secondo Abravanel vanno un po' rivisti i criteri di valutazione. L'esame di maturità sarebbe l'ennesima riforma, purtroppo, aggiungo io, ne abbiamo già viste tante, ma anche quelli dei test all'università, comunque degli spunti interessanti. All'interno anche un'intervista al CEO, l'amministratore delegato di Banca Intesa, che nei giorni scorsi ha pubblicato i conti del primo semestre ed è con risultati record in termini di ricavi e utili. E quindi Carlo Messina racconta a Nicola Saldutti, con un certo ottimismo, è una pagina intera, pagina 5 del Corriere della Sera: l'Italia è uscita dal tunnel della crisi, il risparmio è il pilastro della crescita. Dal Corriere della Sera anche un interessante approfondimento sulla campagna elettorale negli Stati Uniti. Si vota nel novembre 2016, ma la campagna per, appunto, chi sarà il nuovo presidente, il successore di Barack Obama, perché sapete che negli Stati Uniti il massimo dei mandati è 2 e Barack Obama è, appunto, quasi alla fine del secondo mandato. La corsa in realtà è già iniziata. Da una parte la super candidata, dalla parte dei democratici, è Hillary Clinton, che ha già fatto parecchi comizi, e dall'altra parte ci sono moltissimi candidati. All'inizio sembrava che quello con maggiori chance di successo fosse Jeb Bush, in realtà adesso Donald Trump, nei sondaggi un po' sorpresa, sta emergendo come in realtà in questo momento il candidato forte dei repubblicani, soprattutto quello ha un patrimonio personale stimato in 10 miliardi di dollari, quello che potrebbe spendere di più per la campagna. E allora il titolo dell'articolo di Massimo Gaggi: dollari e politica. La campagna americana batte tutti i record, Biden ci ripensa, forse si candida contro Hillary. Ci saranno molti colpi di scena, uno potrebbe essere questo, cioè che l'attuale vicepresidente Joe Biden potrebbe, appunto, candidarsi e sfidare alle primarie, perché poi ci devono essere ancora le primarie sia dei democratici che dei repubblicani, e sfidare, appunto, Hillary Clinton. Un reportage di due pagine, sempre dal Corriere, pagina 10 e pagina 11, di Fabrizio Roncone dal Cocoricò, che è una delle più famose discoteche italiane, forse la più famosa di Riccione, e soprattutto viste le morti degli ultimi giorni e si è riaperto la discussione su quanta droga circoli, quante droghe soprattutto sintetiche circolino nelle discoteche, e Fabrizio Roncone, appunto, è stato proprio lì e ci racconta dall'interno questo scenario, partendo, appunto, dalla vicenda di Lomberto Lucaccioni, che è morto il 19 luglio, aveva soltanto 16 anni, per un overdose di ecstasy. I maggiorenni comprano alcolici e li cedono ai ragazzi più piccoli. Pasticche? Quante ne vuoi? E i controlli? Ci provano, ma è impossibile in questa bolgia. Viaggio in un tempio dei giovani. La prima pagina del Sole 24 Ore ha la notizia della Corte dei Conti sulle tasse locali, ma soprattutto un nuovo appuntamento con questo nostro metodo di analizzare i provvedimenti del governo, in generale, insomma, qualsiasi cosa, qualsiasi legge, che si chiama Rating 24, per capire che cosa, appunto, dopo gli annunci, che cosa è successo, quanto la parte attuativa ha funzionato. Sprint dei decreti attuativi, ma meno riforme in porto. Restano ancora, pensate, 176 norme che risalgono alle leggi Monti-Letta, quindi il governo precedente. Il commento di Fabrizio Forchevich, direttore del Sole 24 Ore: l'impegno c'è, la svolta no. Il tasso di realizzazione complessivo è salito al 61%. Questo lo trovate poi nel dettaglio, tutte queste analisi, alle pagine 2 e 3. Nel dettaglio trovate anche lo schemino di quell'iniziativa di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, che si chiama Estate con il Sole, ed è un'iniziativa che parte domani, ne parleremo anche domani. Ogni giorno ci saranno due pagine dedicate alle novità normative, con opportunità e consigli, soprattutto per tutti i temi che riguardano le famiglie, ma poi anche le aziende. Si parte la prima settimana con la casa e il condominio. Il consueto appuntamento alla domenica con la lettera al risparmiatore, Vittorio Carlini questa settimana prende in esame il titolo IREN, che dice con un business a caccia di più efficienze. Trovate poi l'analisi di questo di questa azienda delle utility, quindi dei servizi di acqua, gas ed elettricità, la trovate a pagina 12. Un approfondimento sulle tasse locali, dicevamo sui dati della Corte dei Conti resi noti ieri, che indicano un livello massimo di queste tasse locali. La cronaca a pagina 5 di Gianni Trovati e poi il commento. Sapete che Gianni Trovati è veramente il nostro esperto di enti locali, adesso tagli senza altri pasticci. Un commento invece su fisco e lavoro di Luca Ricolfi, perché non si deve sprecare il 2016. Un altro approfondimento interessante, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, di che cosa succederà nei mercati in questo mese, come si comporteranno le borse. E allora Vittorio Darold, che in Grecia ha passato tanto tempo nelle ultime settimane e ora appunto commenta, scrive questo articolo, lo trovate a pagina 7, in realtà è un articolo e un commento. L'articolo è: la crisi greca affronta il test della borsa. Tsipras dovrà, infatti sappiamo che Tsipras, ne parlavamo ieri, sta continuando a negoziare con il suo partito e con il suo parlamento le riforme che ha promesso, quindi ribelli interni a Siriza, che comunque sono un problema, e poi ci sono altre scadenze con la Banca Centrale Europea a metà mese, perché sappiamo che sì, il negoziato ha avuto una svolta con questo via libera al prestito che è stato dato, il prestito ponte alla Grecia, ma poi sappiamo che ci sono ancora il debito è ancora lì e ci sono tanti nodi, come appunto quello delle riforme che Tsipras ha promesso ma che ora il Parlamento deve approvare. Vi segnalo anche dalla pagina di commenti due articoli sul tema della merger and acquisition. Uno torna sul caso Italcementi, sapete la grande operazione di questa settimana che è appena passata con l'acquisizione tramite OPA di Italcementi da parte del gruppo tedesco Heidelberg, che ha dato vita al secondo gruppo mondiale del cemento. Fabrizio Nida, economista della Bocconi, cosa insegna il caso Italcementi? Un segnale buono: l'eccellenza è in grado di attrarre investimenti. Diverso il caso di altri ingressi nei quali prevale una logica puramente finanziaria, che è appunto quella che Carlo Pesenti, amministratore delegato di Italcementi, nell'intervista concessa a Paolo Bricco e pubblicata al Sole 24 Ore mercoledì, ha proprio detto: non è questo, non è un'operazione finanziaria. La carta vincente dei Pesenti era la forza del settore. E poi un altro, vi dicevo, il secondo articolo invece, che riguarda sempre l'argomento fusione acquisizioni, merger and acquisitions, di Carlo Festa: shopping tedesco a quota 15 miliardi. L'articolo prende spunto da un rapporto di KPMG che mostra come dal 2008 sono state 72 le acquisizioni delle aziende tedesche in Italia, più attive le imprese americane, francesi e inglesi. La Repubblica, anche qui il titolo è sulla questione delle tasse, poi la fotonotizia sul nubifragio a Firenze, e sempre in prima pagina, poi lo trovate a pagina 12 e 13, un approfondimento di Lucio Caracciolo, che è un giornalista esperto di questioni internazionali, anche fondatore e direttore di una rivista che proprio a questo si dedica, che è Limes, e ci racconta, parlavamo delle presidenziali americane, ci racconta di un'altra eccellente candidatura anticipata, diciamo, che è quella di Angela Merkel, che si è detta pronta al quarto mandato. Le elezioni in Germania, le elezioni politiche saranno nel 2017, ma evidentemente bisogna prepararsi fin da adesso. E vi segnalo, a proposito di Grecia, la Repubblica ripubblica un'intervista concessa da Yanis Varoufakis a El País. Sapete che Repubblica ha accordi di syndication con alcuni giornali stranieri, tra questi El País, quindi a volte ripubblica gli articoli comparsi su El País. La foto è quella che abbiamo visto anche ieri di Varoufakis, con questa bizzarrissima camicia patchwork tutta sui toni del rosa, del grigio e del rosso, che ha fatto un po' parlare di sé, ma va bene ogni tanto queste cose un po' leggere, anche se in realtà poi sui giornali, se li scorrete, ci sono molti approfondimenti su questo tema dell'abbigliamento e la politica, l'abbigliamento alla sinistra, l'abbigliamento alla destra, ma vabbè, ci interessa di più appunto quello che dice Varoufakis a questa giornalista, Claudi Perez del País. Dice e torna sulla sua ossessione, potremmo dire, che è il ruolo esagerato che ha avuto Schäuble, il ministro delle finanze tedesco. Non solo la Grecia, Schäuble vuole imporre la troica anche a Roma e Parigi, insomma ci vuole un po' spaventare. Il titolo del Messaggero, anche in questo caso, ci sono il tema della Corte dei Conti, il nubifragio a Firenze, e poi però anche una, diciamo, un'anticipazione che non ho visto sugli altri giornali, cioè che ci sarebbero ancora tagli in vista per i soldi agli statali. 13 miliardi per i rinnovi dei contratti vengono dai risparmi sulla spesa, e un approfondimento appunto su come questi tagli tanto annunciati, anche ricordiamo comprendono anche quelli sulla sanità, potrebbero ripercuotersi anche su alcune riforme e su alcuni, per esempio sullo sblocco degli stipendi o delle assunzioni o del rinnovo dei contratti degli statali che erano state promesse. In prima pagina il Messaggero torna sulla questione dello Zimbabwe, dei leoni uccisi, perché ieri era circolata, era arrivato addirittura un CNN alert, cioè un messaggio della CNN, che era stato ucciso anche il fratello di Cecil, il leone, questo si chiama Jericho, il fratello. In realtà, ci spiega il Messaggero, giallo sulla morte di questo leone, perché non si sa, appunto, non è poi stata confermata la morte del fratello di Cecil, che sarebbe stato anche lui vittima di un bracconiere o di un viaggiatore che aveva pagato per questi safari di caccia. Una notizia un po', se ci fosse Alessandro, da mani sul volante. Abbiamo parlato degli enti inutili che dovevano essere aboliti. Ecco, il Messaggero ci racconta la vicenda del CNEL, che né vive né muore. 9 milioni per riunirsi 8 volte. A un anno dal primo sì alla soppressione di questo ente, a Villa Lubin resistono ancora 39 consiglieri. Senza rimborsi nessuno viene a Roma, tolti pure i computer. Quindi sta lì, è aperto, ci costa un sacco di soldi, non funziona, è stato soppresso ma resiste. La Stampa apre in realtà su una intervista concessa dal ministro della scuola dell'Università Giannini, che dice, reagendo alle prime reazioni sul decreto dell'approvazione del decreto sulla buona scuola dopo le proteste, Giannini ai precari ribelli: assurdo rifiutare il posto, l'appello è rivolto a chi per avere il posto deve spostarsi di sede, un piano di assunzioni così non vi capiterà più, e ricordate che la mobilità c'è sempre stata. E trovate questa intervista a pagina 7. E poi un bellissimo reportage di Francesco Guerrera da New York sui nuovi lavori americani. Sapete che l'America è sicuramente in una fase di forte ripresa economica, lo è da circa un anno, ma anche grazie al fatto che sono nati molti nuovi lavori. Naturalmente l'America è un po' la patria della flessibilità in entrata e in uscita. Questa è la prima puntata di questo reportage, e ci racconta Francesco Guerrero, è andato a visitare un'ex fabbrica del Viagra, cioè il grande farmaco, il più grande successo probabilmente della Pfizer, a Brooklyn, nel casermone abbandonato nel 2008 dalla Pfizer. C'è un incubatore di piccole aziende che fanno business e utili. Ci fermiamo un attimo però per il traffico. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. Vi segnalo, prima di passare ai supplementi della domenica, che oggi sono ricchissimi e spero che tanti di voi avranno il tempo di sfogliarli o di leggerli, e la prima pagina del Secolo XIX, il quotidiano di Genova, perché è l'unico a mettere come fotonotizia la foto di Simone Ruffini, il nuotatore che ieri ha vinto la 25 km ai mondiali, e ha fatto vedere questo cartello: Aurora, mi vuoi sposare? Quindi una richiesta, ha chiesto la mano della sua fidanzata in questo modo. Il commento di Giuseppe Conte: quando un foglietto e un pennarello battono i social media. E poi in prima pagina anche la vicenda che parte dal punto dalla storia del leone ucciso. Cecil era il simbolo del più importante parco naturale dello Zimbabwe, ed è stato ucciso per $55,000 dal famigerato dentista del Minnesota. E Isabella Villa ieri si è provato a cercare a vedere come si prenota online uno di questi safari. E allora il titolo dell'articolo, che poi trovate a pagina 10: se basta una mail per sparare al re leone, nessuno ferma i bracconieri. Lei ha semplicemente scritto a questo società che organizza questi safari, che si trova in Pennsylvania, ha chiesto appunto informazioni. Dopo 4 ore ha avuto una mail dal responsabile. Trovate appunto il resoconto di questo suo tentativo. Naturalmente era una prova, e ha anche scoperto che basterebbero $49,000 servendosi di questa società in Pennsylvania, e si è pronti a partire per l'Africa. Lo Zimbabwe incassa il 4% di questi soldi che vengono dati alle agenzie occidentali che organizzano i viaggi. Vi segnalo ancora una volta la prima pagina dell'Unità. anche oggi un po' bizzarra secondo me. Il titolo è Pensionati alla riscossa, perché il riferimento è al rimborso sulle pensioni. Sapete che era stato bloccato la rivalutazione delle pensioni dal governo Monti, dalla riforma Monti-Ferrero. Poi c'è stata la sentenza della Corte di Cassazione, il governo ha dovuto trovare i soldi per restituire questi rimborsi. Allora, pensionati alla riscossa. Ma forse la cosa più bizzarra è un reportage che trovate a pagina 8 e 9, in viaggio con Maria Elena Boschi, che viene seguita mentre va alle feste dell'Unità. E poi forse no, c'è una cosa ancora più bizzarra, che è un'intervista Speranza, che è un esponente del PD, e ricorderete che ieri il titolo di tutti i giornali era il virgolettato di Renzi: non siamo passacarte dei PM. Sull'Unità non c'era, cioè c'era in un sommario. Oggi c'è questo virgolettato, però oggi è attribuito a Speranza, quindi insomma un po' straniante questa cosa. E poi uno scambio di lettere tra Massimo Mucchetti, senatore del PD, una delle voci più critiche all'interno del PD, che ha scritto all'Unità: caro direttore, va bene che i lettori vanno galvanizzati, ma non esageriamo, criticando un pochino appunto questi titoli che abbiamo segnalato anche noi nei giorni scorsi. E c'è la risposta di Erasmo D'Angelis, il direttore della nuova Unità, che sapete è tornata in edicola il 30 giugno: caro Massico, va bene il Senato, ma fatti un giro per le nostre feste. E va bene. Ma passiamo ai supplementi della domenica. Cominciamo come sempre dal nostro, la Domenica del Sole 24 Ore, e vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi, che si intitola Il Diavolo. La citazione è uno degli aforismi di Karl Kraus, tratto dal suo Detti e Contraddetti, ed è questo: il diavolo è un ottimista se pensa di poter peggiorare gli uomini. E scrive Ravasi: Karl Kraus è lo specchio caustico della decadenza della società austriaca nei primi decenni del Novecento. È anche l'emblema di un pessimismo senza salvezza, se non quella affidata al sarcasmo, tant'è vero che egli non esitava a considerare il mondo una prigione nella quale è da preferire la cella d'isolamento. Si può capire allora anche il motto ironico che abbiamo tratto da Casi Idee, ove è in scena un diavolo vanamente affannato nel suo compito di peggiorare gli uomini, ben più abili di lui nel fare il male. Già Goethe aveva nel Faust una considerazione analoga, anche se di natura morale. Diceva infatti che noi abbiamo cancellato dalla nostra cultura il grande maligno, Satana, e così ci sono rimasti tutti i piccoli mascalzoni. Ritornare alla coscienza profonda del male è indispensabile per avvicinarsi da un vizio più terribile dell'immortalità consapevole, la totale amoralità. E invece, a proposito di ottimismo, la rubrica di Roberto Napoletano, il nostro direttore, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, Memorandum, anche oggi come settimana scorsa è dedicata a una libraia che gli ha scritto, una libraia indipendente, in questo caso è una libraia di Messina, Daniela Bonanzinga, che è entrata nella libreria di famiglia e ne porta avanti il lavoro anche grazie al lavoro che fa anche sui nativi digitali, cioè sulle persone che magari noi consideriamo poco interessate ai libri e che invece scopriamo esserlo. E allora il titolo: il libro di carte, i nativi digitali e la libraia di Messina, è una considerazione. Ringrazio tutti, scrive Napoletano, e non mi stancherò mai di ripetere che le librerie indipendenti sono il cuore e l'anima della cultura di questo paese, ne custodiscono qualcosa di prezioso perché mettono insieme la profondità della conoscenza e le pulsioni dei territori e delle loro famiglie, il fascino discreto di tanti piccoli scrigni che custodiscono valori e memoria, scienza, economia, letteratura, filosofia, emozione e tanto altro. E poi vi segnalo sempre dalla domenica, anche se naturalmente è ricchissima di recensioni, di spunti, ma in particolare questo libro pubblicato da Carocci, La punta del lago, di tre scrittori francesi, che è un romanzo, e uno dei protagonisti è Carlo Rovelli, che è il fisico italiano, uno dei massimi studiosi di gravità quantistica al mondo, e che ha scritto anche un libro di fisica, che è un piccolo libro ad Elfi, che è a sorpresa uno dei best seller dell'estate. È curioso appunto che lui sia anche al centro di un romanzo, lui, le sue ricerche, le sue anche tante peregrinazioni tra università del mondo. E poi un bellissimo ricordo di Andrea Kerbacher, di Sebastiano Vassalli, lo scrittore scomparso domenica scorsa, di cui abbiamo parlato tanto lunedì e martedì, con tutti i ricordi ai giornali. E poi un testo inedito di Sebastiano Vassalli con sul tema l'apocalisse, l'odio e la guerra, a cui associamo la fine del mondo, sono legati a tratti essenziali della natura umana. Il futuro in cui non crediamo più, il titolo di questo articolo di questo inedito che la Domenica del Sole pubblica oggi. La lettura del Corriere della Sera, la copertina come sempre affidata a un artista, oggi è Georges Rousse, e all'interno anche qui molti spunti. Vi segnalo un ritratto molto approfondito con anche in questo caso un suo scritto di Margaret Atwood, che è forse la più grande scrittrice americana vivente, forse insieme a Alice Munro, e che racconta il suo popolo, racconta se stessa e poi ripercorre anche la storia del suo paese degli ultimi anni, tre barzellette e un fantasma, Il mio Canada. Sempre dalla lettura vi segnalo questa analisi di Fabio De Otto, che spiega come un po' la climate fiction abbia sostituito la science fiction, che poi è la traduzione di fantascienza. In questo caso però uno dei precursori era stato Michael Crichton. Fabio De Otto nota questa tendenza di autori e registi che negli ultimi anni hanno deciso di affrontare il tema del cambiamento climatico con serietà e rigore, rinunciando un po' agli stilemi del thriller fin troppo apocalittico. E poi una recensione di Tullia Voledo al nuovo libro di Michael Faber, ricordate l'autore del Petalo Cremisi, pubblicato 13 anni fa. Michael Faber è uno di quegli autori che si prende il suo tempo per scrivere i libri, non sforna un romanzo all'anno, magari anche ogni sei mesi, e allora sta per uscire appunto il libro delle cose nuove e strane per Bompiani, e Tullia Voledo ci fa questa bella recensione, Il Predicatore in missione nello spazio. Tanti approfondimenti anche sulla lettura, ma vi segnalo la copertina della Domenica di Repubblica, dove Paolo Rumiz inizia quest'estate un viaggio in cammino da Roma a Brindisi, riscoprendo i tratti dimenticati alla ricerca dell'Appia perduta, e oggi c'è la prima pagina. E poi quelle interviste che sapete vi segnalo sempre, perché sono su due pagine, con al centro un bellissimo ritratto dell'illustratore Riccardo Mannelli. Oggi è Fleur Yeghi, scrittrice, moglie di Roberto Calasso, fondatore di Adelphi, e ci racconta un'intervista veramente struggente, direi, ma molto bella, che ci rivela molto della personalità di questa scrittrice, che classe 1940, ha ormai insomma una vita da raccontare: l'infanzia nei collegi tra Zurigo e Roma, la letteratura, l'incontro con Roberto Calasso e il mondo editoriale. E però il virgolettato che sceglie Gnoli per appunto per la sua intervista è: amo il vuoto, l'assenza di relazioni, vorrei solo la macchina da scrivere. E tra l'altro questo mi fa venire in mente una citazione che ho letto ieri proprio di Carlo Revelli, il fisico, che dice: il lavoro intellettuale è un po' la salvezza di potenziali disadattati, naturalmente detto con grandissima ironia, però è chiaro che la scrittura, la macchina da scrivere appunto per Fleur Yeghi, può essere un rifugio, un modo per trovare il proprio posto nel mondo. Ultime segnalazioni che riesco a farvi è dalla Controcultura, il supplemento del giornale dedicato appunto alla cultura, un'analisi di questa nuova battaglia tra la cultura del nord degli Stati Uniti e i sudisti americani, che presto, ci racconta Filippo Olivieri, sarà una serie TV. Dall'Avvenire, trovato veramente affascinante colloquio tra un poeta, che è Roberto Mussapi, e Klaus Di Biasi, il grande tuffatore che abbiamo evocato, perché Tania Cagnotto sta emulando le imprese di questo grandissimo tuffatore. E allora il poeta è il campione, parla al tuffatore, l'ebbrezza e governare il corpo in un ambiente diverso da quello umano, e ci racconta questo brivido metafisico di questa disciplina così affascinante che è il tuffo. E appunto Klaus Di Biasi è proprio in questi giorni festeggia i 40 anni dal suo ultimo oro, che vinse ai mondiali di Cali nel 1975. Era di origine austriaca e ma gareggiava appunto per l'Italia. Sull'unità, nel supplemento Radar, ancora un ricordo per festeggiare i primi 5, ancora, perché dico anche altri giornali ne hanno parlato, ma è giusto parlarne sempre, perché parlo di Linus, la rivista che compie 50 anni ed è anche tornata in edicola, e invece con Repubblica tra l'altro vengono venduti i volumi originali. Linus, il fumetto che cambiò l'Italia, il ritorno in edicola per festeggiare i primi 50 anni tumultuosi di una rivista che ha segnato la storia culturale del paese. Ultimissimo, ancora qualche secondo, poi come mi fa segno Peter Bescapè in regia, che ringrazio perché mi ha tenuto nei tempi anche oggi, ma ultimissima segnalazione da Macro del Messaggero: La cometa della vita, pubblicati su Science i primi studi della missione Rosetta, che sta studiando il corpo celeste 67P su cui è atterrato il Lander Philae. Quindi un po' abbiamo parlato di gravità quantistica di Carlo Rovelli e un piccolo viaggio nello spazio con questo articolo del Messaggero. Era l'ultima segnalazione, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.